Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Ciò che differenzia l'uomo dagli altri esseri viventi è certamente la capacità di domare l'istinto, rifiutare le sue indicazioni per spingersi oltre i propri limiti e raggiungere così obiettivi apparentemente impossibili. La volontà è alla base di tutte le grandi imprese dell'uomo. La storia di oggi parla di un'impresa sportiva unica e straordinaria che dura un'intera carriera trascorsa in un anello di 400 metri tra tartan, terra rossa, sabbia, negli stadi di mezzo mondo. Un'impresa sportiva condizionata per buona parte da un atto di volontà deliberato, arbitrario. Un atto di volontà che si chiama promessa. Protagonista un atleta, un velocista. Per presentarvelo facciamo un salto nel passato, alle Olimpiadi di Berlino del 1936. Jesse Owens, grande atleta al quale Destini Incrociati ha dedicato un'intera puntata, è il primo velocista ad aggiudicarsi 4 medaglie d'oro in una sola Olimpiade. Nei 100 metri, 200 metri, salto in lungo e staffetta 4x100. Un evento unico, difficilmente ripetibile. Bisognerà infatti aspettare quasi 50 anni per rivedere un simile exploit. E sarà ancora una volta un atleta americano con la pelle nera. Riprogrammiamo il nostro orologio, quindi, e andiamo alle Olimpiadi di Los Angeles del 1984. I momenti che precedono la finale dei 100 metri per un velocista sono interminabili. La solitudine della svestizione, la ricerca della concentrazione, la corsia davanti a sé e l'idea di combattere più con se stessi che con gli avversari. È una finale che coinvolge solo gli atleti di 4 nazioni, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, il Canada e la Giamaica. Tra gli 8 finalisti, un americano 23enne sta cercando di apparire sicuro. Ma ha il cuore in gola. Il suo nome è Carl Lewis. Il rumore inizia ad abbassarsi. Io inizio a concentrarmi. Poco prima della partenza, alcune persone vicine alla pista hanno iniziato a urlare e incitarmi. Questa cosa mi ha elettrizzato. A quel punto arriva lo sparo della partenza. Gli atleti esplodono nel loro scatto. Tra di loro, quel giovane 23enne sta ponendo una delle 4 tessere di un mosaico che lo porteranno ad eguagliare il record di Jesse Owens, le 4 medaglie d'oro. La progressione è inarrestabile. La sua forza schiaccia indietro gli avversari, 9 secondi e 99 centesimi per mettere in riga tutti gli altri e aggiungere un oro al proprio personale bottino. Saranno 4 in tutto, nei 100, 200 metri, nel lungo e nella 4x100. Ho vissuto gli stessi alti e bassi di Jesse Owens nel 36, quando fece il suo tentativo di vincere le 4 medaglie. Sotto questo aspetto è stato per me una fonte di ispirazione, perché io ho sperimentato personalmente le difficoltà che lui stesso ha affrontato. E poi essere la persona che è, la persona che mi ha ispirato sin da piccolo. Qualcosa ci lega adesso. Già da queste parole di Lewis emerge un carattere importante della sua personalità, l'importanza che lui dà ai segni, ai simboli, per seguire la propria strada con determinazione e tenacia. Quella forza di volontà di cui abbiamo parlato pochi minuti fa è sostenuta da esempi importanti. Per il giovane Carl sono rappresentati da persone come Jesse Owens, appunto, o come il padre, William Lewis. È il 1969. Al Willingboro Track Club, New Jersey, si sta svolgendo una piccola cerimonia di inaugurazione del nuovo impianto sportivo di atletica. William Lewis è tra i promotori dell'iniziativa. Ex atleta, ha sempre creduto nello sport come strumento chiave per l'educazione dei giovani. A fianco a sé, il piccolo Carl. Ha solo 8 anni e tiene orgogliosamente la mano del suo papà. Evelyn, la mamma, anche lei ex atleta olimpionica, tiene a bada la piccola Carol di 6 anni. Originaria di Birmingham, Alabama, un profondo sud incapace di dare speranza ai giovani della comunità nera, la famiglia Lewis si trasferisce in New Jersey, dove le opportunità sono sicuramente molte di più, soprattutto per chi dimostra una passione smisurata per lo sport. Durante gli allenamenti dei genitori, il piccolo Carl e la sorellina, in mancanza di una babysitter, vengono parcheggiati nella piazzola di sabbia del Salto in Lungo. Sarà leggenda o realtà, ma crescere in quel particolarissimo parco giochi porterà Carl a salire sulla vetta mondiale della specialità e la sorella Carol a diventarne primatista americana. Quando si dice l'importanza di cominciare da piccoli. Ho avuto una straordinaria armonia in famiglia, dei genitori che mi hanno dato tanto amore. È stata la cosa più importante. Il sostegno della famiglia è importante per Carl. Gli dà serenità, armonia. È così che il giovane sviluppa quel talento che non viene necessariamente dal corpo, ma da una forza mentale fuori dal comune. Il ragazzino, infatti, non ha una struttura muscolare potente. È basso per la sua età, tanto che la sorella lo chiama Shorty. In più è timido, ma a dispetto delle apparenze, esprime costanza negli allenamenti e la volontà di migliorare. A 10 anni, insieme al cugino, durante una gara per ragazzini, ha il primo incontro importante della sua vita. Quello col mitico Jesse Owens, che avrà modo di incitarlo così. Ragazzi, mi raccomando, lo sport è molto importante per crescere. Cercate di seguire l'esempio di questo piccolo e selvaggio ragazzetto. In 10 anni di preparazione, il piccolo selvaggio ragazzetto diventa uomo. 88 kg di potenza muscolare allo stato puro per 1,90 m di altezza. Un fisico elegante e una personalità già pronta per cercare i massimi traguardi. Un nuovo decennio è alle porte e con esso le Olimpiadi di Mosca, la sua prima vera grande occasione. Recentemente si è verificato un altro serio sviluppo che mette in grave pericolo la pace nell'area del sud-est asiatico. Forze militari sovietiche hanno invaso il piccolo stato non allineato dell'Afghanistan. Il 1980 inizia proprio male sul fronte politico. Il presidente americano Jimmy Carter è preoccupato dell'escalation militare sovietica e le imminenti Olimpiadi del 1980 di Mosca sono uno strumento di pressione troppo invitante. Sarà così che per la prima volta nella storia dei giochi questi verranno boicottati al completo da una nazione, gli Stati Uniti d'America. Per Carl Lewis, che ha già superato i trial, le selezioni americane per le Olimpiadi, è un momento di grande delusione. Pur avendo superato le selezioni da numero uno, ad appena 18 anni non potrà partecipare. Dovrà attendere altre 4 stagioni per esordire alle Olimpiadi, l'unica vera platea che conti per un giovane velocissimo come lui. Il 1984 non è solo l'anno delle Olimpiadi americane. Mentre al cinema si dà la caccia ai fantasmi con i Ghostbusters, nei laboratori francesi viene isolato il virus dell'AIDS. Mentre tutti si chiedono che ne è stato della profezia di George Orwell, la Apple Computer risponde entrando nel mercato con il primo Macintosh. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Carl Lewis intanto non si è fermato. È il più quotato velocista a stelle e strisce. Ha vinto nel 1983 3 medaglie d'oro ai mondiali di Helsinki e si appresta a scendere in pista a Los Angeles da dominatore. Come abbiamo ricordato, la stampa caricherà sulle sue spalle l'eredità di Jesse Owens, ma 4 medaglie d'oro alle Olimpiadi sono un peso difficile da gestire a 22 anni. Un misto di ingenuità e di spacconeria lo porta a guardare avanti. Lui ha poche idee in testa, ma tutte maledettamente buone. All'inizio, quando hai 18, 19, 20 anni, l'unica cosa che hai in mente è esserci. Sei così eccitato e nella tua testa ci sono pochi elementi perché sei giovane. Io pensavo alla gara, a pochi semplici elementi che mi hanno poi seguito nella carriera. Cosa faccio appena esco dai blocchi? Devo alzarmi, venire fuori, correre. Pochi elementi che mi possono rendere il migliore in gara. È così che Carl Lewis si porta a casa 4 ori alle Olimpiadi dell'84. Una pagina di storia, una carriera la sua, destinata ad andare avanti per ancora altre Olimpiadi. Tutto adesso sembra andare per il verso giusto. Il suo carattere è un po' spaccone, si adatta al personaggio che esce dalle piste per entrare nel costume, nella moda, nello spettacolo. Il suo agente arriva persino a paragonarlo a Michael Jackson, suscitando le ire di altri atleti che con lui hanno a che fare ogni giorno, come il grande campione della corsa a ostacoli Edwin Moses. Rompe un po' troppo le scatole. Un po' di umiltà gli farebbe bene, ma Carl ne è totalmente sprovvisto. Carl è fatto così. Forse è per questo che in termini di popolarità gli americani non lo trasformano nel loro idolo. Troppo arrogante, supponente. Già nelle Olimpiadi dei 4 ori, nella gara del salto in lungo, Lewis, che ha già vinto, delude il suo pubblico decidendo di non tentare il record mondiale detenuto dal mitico Beamon. Uno smacco che l'America non gli perdona, tanto che la Nike non gli rinnova il contratto di sponsorizzazione. Il pubblico americano in sostanza gli volta le spalle. Ma l'atletica è uno sport di rilevanza mondiale, perciò Carl si consola in Europa e in Giappone, dove viene osannato come King Carl. Ma l'amarezza per il trattamento subito nel suo paese è difficile da smaltire. Non mi viene chiesto di saper parlare chiaramente e saper decifrare gli umori di voi giornalisti o del pubblico. Mi viene chiesto di essere un atleta appassionato del proprio sport, che ha 22 anni ed è spaventato a morte e non crede ancora di aver vinto le Olimpiadi. Il 1986 è un anno difficile per Lewis, che si infortuna abbastanza seriamente al ginocchio. È sempre il numero uno, ma i problemi fisici non stemperano l'immagine che il pubblico ha di lui. È considerato un antipatico e lui lascia fare. Guarirà e sarà pronto per altre vittorie, ma una tragedia ben peggiore sta per abbattersi nella vita familiare del ragazzo di 26 anni. Un dramma capace di cambiare Carl nel profondo. Il padre William, colui che lo ha portato da bambino su una pista di atletica e ne ha incoraggiato l'impegno sportivo, è gravemente ammalato. Mio padre era orgoglioso di me soprattutto per la medaglia olimpica dei 100 metri. Ho preso la medaglia e gliel'ho messa tra le mani, poco prima di seppellirlo. Ho detto a me stesso che ne avrei vinta un'altra. Questa è stata la mia promessa a mio padre. È una cosa che riguarda unicamente me. L'anno successivo ne avrei avuto la possibilità ed ero certo di farcela. È la forza di volontà che ora guida Carl verso il successo. Un fatto di testa prima che di muscoli. I mondiali di Roma del 1987 e le Olimpiadi di Seul del 1988 sono occasioni importanti per mantenere la sua promessa. Vincere di nuovo la medaglia d'oro olimpionica dei 100 metri. Carl in questi momenti pensa a suo padre e a se stesso. Ha già vinto tutto e ha bisogno di nuove motivazioni. È l'unica possibilità per rimanere sul tetto del mondo. Devi essere una specie di visionario per arrivare al numero uno. E soprattutto rimanere al numero uno. Perché devi continuamente crescere nella performance, nella velocità e nell'idea stessa che si ha di questo sport. Nello sport, come nella vita, si affacciano continuamente nuovi talenti pronti a competere per raggiungere ambiziosi traguardi. Restare in vetta non è facile. Lewis se ne rende conto sin dagli esordi, sin dall'oro nei 100 metri dell'84. Alla premiazione, sul podio, al gradino più basso, medaglia di bronzo, un giovane coetaneo di Lewis è felice e orgoglioso del suo risultato. Al contrario dell'elegante rivale, è piccolo, tarchiato e oltremodo muscoloso, un concentrato di potenza che vuole assolutamente crescere e arrivare in cima, a ogni costo. Carl non gli dà molta importanza, ma quel ragazzo entrerà con prepotenza nella vita sportiva di Carl, minandone tutte le certezze. Per scoprire la portata di questo atleta nella storia dell'atletica leggera e il ruolo sconvolgente nella carriera di Carl Lewis, andiamo a Roma nel 1987. È il 29 agosto, sono le 18:40. Campionati del mondo di atletica leggera, finale dei 100 metri piani. È un passaggio importantissimo prima delle Olimpiadi. Serve a capire il livello di preparazione. È comunque un confronto internazionale per prendere le misure con tutti i competitori. In finale si fronteggiano gli 8 migliori sprinter del mondo, ma tutti sanno che quello che sta per andare in scena non è altro che un match race tra Carl Lewis e quell'atleta muscoloso ai limiti dell'abnorme, già bronzo alle Olimpiadi del 1984. È timido come il primo Lewis. Vestendo i colori della selezione canadese, negli ultimi 3 anni ha stupito gli osservatori, migliorando i suoi tempi in una progressione inarrestabile. Ha un modo di correre completamente diverso dal rivale americano. Esplode letteralmente alla partenza, guadagnando con un balzo felino la testa, per poi mantenere la velocità fino alla fine. Lewis, anche per la sua struttura fisica, parte più lento. Poi sfodera la migliore progressione di tutti i tempi nei secondi 50 metri. Tutti si chiedono se Lewis, il figlio del vento, sarà in grado di domare il rivale canadese. E questa è l'occasione giusta per scoprirlo. La pistola è come una scossa elettrica per il canadese, che parte come un razzo. L'atleta è talmente sovrastato dalla propria stessa brutalità che rischia di invadere la corsia a fianco, dove Carl Lewis sta cercando di dare il massimo. Ma si sa, la sua potenza si esprimerà sulla distanza. Niente da fare. Già dopo 10 metri, quel concentrato di muscoli è già 2 metri avanti. Lewis è come basito, cerca di esprimersi nel suo famoso allungo, ma è troppo tardi. Il canadese taglia primo il traguardo. Si guarda indietro, Carl. Incrocia lo sguardo dei giudici di partenza. Non riesce a credere che la partenza del rivale possa essere stata valida, ma i rilevatori ai blocchi non mostrano alcuna pressione anomala prima dello start. Il cronometro segna 9.84. Verrà corretto in 9.83. È il record del mondo. Il pubblico mondiale, si sa, è molto volubile. Se un atleta non entra nella simpatia, si è subito pronti a scaricarlo. Lewis se ne rende conto in un solo istante, con quel secondo posto ai mondiali di Roma. È appena stato segnato un nuovo record mondiale, 9.83. Lui è secondo a un decimo di distanza. Le urla del pubblico sono tutte per il nuovo campione e Carl non può fare a meno di pensare alla sua sconfitta e alla sua promessa. I'm gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. And as I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. Destini incrociati. A destini incrociati, Carl Lewis, il figlio del vento, è nel pieno di una carriera che gli ha già dato 4 ori olimpici nel 1984. La morte del padre, suo grande sostenitore, ne ha trasformato il carattere. Adesso che nella tomba accanto a lui giace la prima medaglia di Carl, quella preferita dal padre, quella dei 100 metri, per l'americano è il momento di vincerne un'altra, nella stessa specialità. Una promessa fatta a se stesso. Un modo per trovare le motivazioni importanti per andare avanti. Carl corre veloce. Pensa che niente possa fermarlo. Niente. A parte qualcuno più veloce di lui. A Roma, il 29 agosto 1987, durante i mondiali di atletica leggera, Carl Lewis ha lasciato il gradino più alto del podio e si è dovuto accontentare di un secondo posto. È stato letteralmente dominato da un canadese dalla forza sconvolgente, che nel tempo di 9 secondi e 83 centesimi ha sgretolato ogni sua certezza in fatto di tecnica velocistica. Mille pensieri si affollano nella testa di Lewis. Chi è quell'atleta che si è messo di traverso sulla sua strada? Quante speranze ha adesso di vincere l'oro dei 100 metri alle Olimpiadi di Seul, cui manca poco meno di un anno? Delle due domande, l'americano può dare risposta solo alla prima. È impressa a lettere scintillanti nel tabellone elettronico dell'Olimpico di Roma. Il nuovo primatista del mondo dei 100 metri piani si chiama Ben Johnson. Ben Johnson. A scuola mi continuavano a schernire. Mi toglievano la sedia, mi facevano cadere per terra con tutti i libri. Uno in particolare mi prendeva in giro. Diceva che era il migliore. Ero stanco, arrabbiato. Così un giorno lo sfidai in una gara. Siamo andati sulla pista. L'ho battuto. 11 secondi. In queste poche battute si sintetizza tutta la difficoltà che un ragazzo come Ben Johnson ha dovuto affrontare in un paese straniero, il Canada, partendo dalle retrovie, con la difficoltà di una leggera balbuzie, un inglese incerto e una timidezza rotta raramente da un sorriso disarmante. Una fame di affermazione, quella del giovane caraibico, che condizionerà tutte le sue scelte future, da quando il suo aereo atterra nel 1976 a Toronto, da Kingston, Giamaica. In Giamaica Ben vive con la famiglia. È felice e sereno, anche se i soldi sono pochi. La Giamaica ha da poco ottenuto l'indipendenza e i sogni di uno sviluppo rapido e capace di portare benessere sostengono le condizioni precarie nelle quali la popolazione locale deve condurre la propria esistenza. Ben è già abituato a correre, è veloce e già quando è un ragazzino impara a correre per piccole ricompense. Da bambino nelle strade ero il più veloce del quartiere. Ci sapevo fare. E la gente ci faceva gareggiare e scommetteva 10, 15 centesimi. E più vincevo, più la gente scommetteva su di me. La recessione che colpisce il paese caraibico negli anni 70, seguita al fallimento dei progetti di rilancio basati sul turismo, portano la famiglia, nel 1976, a trasferirsi in Canada. Basti pensare che persino l'idolo locale, Bob Marley, si autoimpone un esilio a Londra per sfuggire alle inevitabili repressioni governative sulla popolazione esasperata dalla povertà. Sono centinaia le famiglie giamaicane che si trasferiscono a Toronto in quegli anni. I nuovi ospiti portano forza ai piani di rilancio dell'economia, ma anche al desiderio di primeggiare nel mondo attraverso lo sport del Canada. Con questa nuova linfa, il paese nordamericano può rivaleggiare con gli Stati Uniti, di cui soffre l'influenza ora più che mai. Ben Johnson vede nel Canada il trampolino di lancio per tentare il riscatto. E il Canada, dal canto suo, vuole trovare un posto nel mondo da alfiere dei diritti civili e della tolleranza. Integrarsi nella società per Ben Johnson, che ha solo 15 anni, è certamente difficile. Ma la comunità giamaicana a Toronto è numerosa e ben radicata. E se a scuola Ben non eccelle, almeno nello sport il giovane caraibico si fa notare e si inserisce immediatamente nella squadra di punta dell'atletica. La sua insegnante, Linda Nicol, ne parla così. Era fatto così. Ben aveva una cosa in testa: essere migliore di chiunque altro. Questo era il suo unico obiettivo. Tutti hanno un punto di riferimento nella vita. Lui lo ha trovato subito. In pista Ben si dimostra subito forte, ma non abbastanza. Gli serve un coach in grado di aiutarlo a crescere e lo trova in Charlie Francis, un uomo generoso che vede in Ben del talento, come conferma la compagna di squadra Angela Issayenko. Charlie si sarebbe spogliato di tutto per aiutare un suo atleta. Ben non aveva soldi e neanche la sua famiglia. Charlie gli comprava la colazione, i vestiti. Era un po' come un secondo padre per lui. Ben Johnson non ha uno stile preciso, punta tutto sullo scatto, che è bruciante, non ancora esplosivo, ma efficace. Il problema emerge alla distanza, gli manca potenza da esprimere su tutto l'arco della sua misura preferita, i 100 metri. È su questo che si deve lavorare. Charlie, il trainer, trova in lui, come in molti altri, la voglia di vincere, la predisposizione al sacrificio. Ma Ben ha un ingrediente in più, è pronto a tutto, pur di arrivare al successo. Charlie Francis, il coach, porta la squadra in Europa per accrescere l'esperienza internazionale del gruppo. Nelle gare internazionali, infatti, i paesi dell'Europa dell'Est sono quelli che primeggiano in tutte le specialità. In particolare, gli atleti della Germania dell'Est, paese di pochi milioni di abitanti, che esprime da solo il 30% dei primati in atletica. È la stessa Issayenko a parlarne. Tutte le atlete correvano i 100 sotto gli 11 secondi, 21,71 nei 200. Era record del mondo. E tu pensavi, che atleti fantastici. Poi qualcuno ti diceva all'orecchio, prendono tutti sostanze. È chiaro che la conseguenza era pensare che senza quelle sostanze non avresti mai potuto vincere. Lo sport come scuola di vita è qualcosa che rimane nell'ambito degli ideali. Già dagli anni 70 lo sport è strumento di pressione politica, di affermazione di prestigio nazionale, espressione di interessi economici. E vincere è questione di primaria importanza, a qualsiasi costo, con qualsiasi mezzo. Un meccanismo inesorabile di cui gli atleti sono solo ingranaggi, vittime di imposizioni che vengono sempre e solo dall'alto. Gli atleti canadesi rientrano in patria. Quell'esperienza europea viene elaborata in modo diverso da ciascuno di loro, secondo la loro personalità, alla luce delle loro vicende personali. Ben vede un solo obiettivo, ed è sempre lo stesso. Allontanare lo spettro della povertà, raggiungere il successo, non essere più schernito per il colore della sua pelle, essere perfettamente integrato, conquistare una nuova identità. Non voler essere più chiamato il giamaico canadese, ma il canadese a tutti gli effetti. Dopo una serie di gare minori nelle quali le performance di Ben crescono in qualità, il vero successo per l'atleta arriva nel 1987 con un record e una medaglia d'oro ai mondiali di Roma. Per Ben è finito il tempo dei sacrifici, inizia quello del denaro e del successo. Ben Johnson in Canada non è più un immigrato giamaicano, adesso è un eroe nazionale che gira in Ferrari testa rossa. E tra poco ci sono le Olimpiadi. Destini incrociati. Le Olimpiadi per un atleta sono il momento di una vita. 4 anni di preparazione, sacrifici, tensione che si accumula per essere liberata in una competizione sulla quale il mondo intero rivolge la sua massima attenzione. È il 1987. Si preparano le Olimpiadi di Seul. Carl Lewis, il re, il figlio del vento, ha fatto una promessa a se stesso, lasciando la medaglia d'oro nei 100 metri conquistata nel 1900 a Los Angeles, accanto al padre morente. La promessa di riconquistarla una seconda volta. Ma il suo primato è fortemente incrinato da un atleta canadese che negli ultimi anni ha sgretolato ogni record fino a centrare il primato mondiale a Roma. Il suo nome è Ben Johnson, un uomo disposto a tutto pur di vincere l'Olimpiade. Carl Lewis nel 1988 ha 27 anni. Quanto potrà ancora correre a questi livelli? Un velocista, man mano che si avvicina ai 30 anni, acquisisce esperienza, ma perde potenza. Un rapporto che col passare del tempo non sarà più così favorevole. Ragionevole quindi pensare che una terza Olimpiade possa non rappresentare una probabilità concreta. Insomma, ora o mai più, deve aver pensato Carl. Ecco quindi che il velocista del New Jersey inizia una preparazione scrupolosa, volta a migliorare sotto tutti i punti di vista. Ho un rituale molto semplice prima di ogni sprint. Arrivo sempre riscaldato, preparato. Arrivo alla linea di partenza, saluto tutti, mi congratulo con tutti, auguro buona fortuna ai miei rivali. E questo innanzitutto mi dà tranquillità, perché arrivo rilassato. In secondo luogo mi mette nella condizione di neutralizzare gli sguardi degli altri, che non pensano a me. E questo mi fa concentrare. In questo semplice modo, Lewis affronta i trial americani e le durissime selezioni interne per formare la squadra americana che quest'anno si tengono a Indianapolis. Lewis vuole dare un segno di riscatto agli americani, al mondo, a Johnson. andiamo a vedere la griglia di partenza dei trial. Carl Lewis, ieri ha ottenuto un 9,96 e oggi lo aspetta un altro grande sforzo. Il già primatista mondiale affiancato da Calvin Smith, come lui primatista con 9,93 prima del record di Ben Johnson. È così che vogliamo vedere i nostri velocisti migliori, fianco a fianco nella finale. Calvin Smith e Carl Lewis, entrambi con un record di 9 secondi e 93 centesimi, entrambi con la voglia di riscattarsi e guadagnare le Olimpiadi. È una festa tutta americana, quella di Indianapolis, ma in Canada c'è un ragazzo seduto in poltrona che sta guardando in diretta la competizione. È Ben Johnson. Vuole vedere in che stato di forma sono i suoi rivali. I giudici sono pronti. La gara sta per avere inizio. Smith in 4, Lewis in 5. Smith breaks out early. Lewis is right with him. Smith being beaten by Lewis. Lewis breaks away and wins the 100 meter final. In a time of 9.78. Okay, that could be the world record. Lewis salta di gioia. Non riesce a credere di aver battuto il record del mondo, seppur in una gara non ufficiale. Dietro di lui, due altri miti della velocità, Dennis Mitchell e Calvin Smith. Ben Johnson, che sta seguendo la diretta televisiva da Toronto, non crede ai suoi occhi. L'intervistatrice è al settimo cielo. Carl, l'unica cosa che ti manca è il record del mondo. Avrai pensato che Ben Johnson ha fatto meglio di te. Pensare all'atleta canadese ti ha dato motivazione? Non direi bene in particolare, ma sapevo di poter migliorare e di diventare sempre più forte. La gara di stasera lo dimostra, sono pronto. Ok, lo sai che Ben Johnson ti sta guardando in televisione. Cosa vuoi dirgli? Sono pronto e ti accorgerai presto che sono tornato. Ben ha visto il rivale in televisione. Una maschera di tensione, la consapevolezza di essere tornato nel suo sguardo. Lewis ha recuperato il gap che lo distanziava ed è pronto a vincere. Che ne sa Lewis della fame, della voglia di riscatto, dei sacrifici che un giamaicano naturalizzato canadese ha dovuto fare? Che cosa ne sa Lewis della sofferenza? Per Ben non ci sono limiti, non ci sono prezzi da pagare. Ben è pronto a tutto, pur di vincere le Olimpiadi. E sia, appuntamento a Seul. I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Seul è la prima Olimpiade dopo le due precedenti edizioni in cui non ci sono boicottaggi. Davanti a tutto il mondo si scoprirà chi è l'uomo più veloce. Ben arriva osannato dal suo pubblico, che vola in sud-est asiatico in massa. Il Canada è pronto a salire sul tetto del mondo. Il gioco delle batterie di qualificazione è una formalità. Charlie Francis è con Ben, che domina la propria qualificazione. Lo stesso fa Lewis. Ben è un concentrato di muscoli che quasi esplode fuori dalla sua canottina rossa. Una massa muscolare abnorme che la postura della partenza evidenzia in modo particolare. Il suo sguardo spiritato, la collana d'oro che ostenta la raggiunta ricchezza. Lewis, in maglia bianca, è distanziato da Ben di due corsie. Let them go first time, and Ben Johnson got a brilliant start. It's Johnson away and clear, and Lewis is not going to catch. Partono come sette. Ben, come al solito, è davanti, ma questa volta la sua progressione è pari a quella di Lewis, che non riesce a recuperare lo svantaggio. È una gara dominata dal canadese, che timbra un nuovo record mondiale. È 9 secondi e 79 centesimi. E le urla del pubblico diventano un peso insopportabile per Carl. La sua promessa al padre di rivincere la medaglia non è stata mantenuta. Ha perso contro il migliore, che sembra arrivato da un altro pianeta. Il pianeta di Ben è un luogo lontano adesso. Le polverose strade di Kingston sono solo un ricordo. Quanto può valere un successo olimpionico? Quando sei in cima, è difficile stimarlo, perché si perde completamente la percezione dei sacrifici e della fatica fatta sino a quel momento. Ben Johnson, per un giorno, ha perso questa cognizione, ha goduto del suo primato. È stato l'indiscusso numero uno al mondo. Per un giorno. Poi, improvvisamente, ha sentito di nuovo il sapore della polvere di Kingston, il peso dei sacrifici di una vita, il dolore della fatica, perché improvvisamente gli hanno tolto tutto. Ben è positivo al controllo antidoping. Ha nel sangue le prove. Per anni ha usato sostanze per amplificare la sua potenza, per raggiungere la vetta. La sua compagna di squadra lo sapeva. Oh, you get this amazing sense of well-being. Because, you know... Hai questa straordinaria sensazione di benessere. L'idea stessa che questa cosa riesca a farti allenare di più, ti renda più veloce, ti renda il campione olimpico, ti dà questa sensazione di coraggio che ti fa camminare attraverso la paura. Non c'è niente che pensi di non poter fare. A Ben Johnson tolgono immediatamente l'oro e con esso la dignità, la vita, la stessa che si era venduto quando ha cominciato i programmi di anabolizzanti già ai mondiali di Roma. E così, mentre un'esistenza viene letteralmente spazzata via, un'altra rinasce. A Carl Lewis viene dato l'oro olimpico in quanto secondo classificato. Una promessa che viene mantenuta. Un atleta che torna a essere il numero uno. Destini Incrociati non vi racconterà delle 9 medaglie d'oro di Carl Lewis nelle Olimpiadi cui ha partecipato, della sua straordinaria longevità come sportivo o del dramma di Ben Johnson, che subita una squalifica a 2 anni non riuscirà a risalire la china e tenterà nuovamente la scorciatoia delle droghe, subendo l'ultima squalifica a vita. Quando la strada della vita prende una pendenza così forte, la differenza sta solo nella direzione che hai preso, se sali o se scendi. Entrambi sanno adesso che sono le piccole scelte di tutti i giorni che fanno un uomo. Oggi Carl Lewis è un esempio per tutti i giovani e lo testimonia col suo lavoro quotidiano per chi soffre e per i giovani che vogliono avvicinarsi allo sport. Anche Ben Johnson ha cominciato a fare le scelte giuste. Oggi fa l'allenatore, il padre e il nonno. E a noi piace l'idea che almeno per questo finale di Destini Incrociati non vinca e non perda nessuno. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.